l'ora esatta di Radio Etna Espresso. Buonasera, sono le 21:05, comincia il Marchi Club. Radio Etna Espresso presenta Marchi Club. L'unico club di musica live in diretta radio. Su Radio Etna Espresso, Marchi Club, in diretta dal centro musicale Space Music a Cireale. Buonasera, buonasera a tutti voi che siete in ascolto delle frequenze di Radio Etna Espresso. Comincia una nuova puntata del Marchi Club, condotta da Carla Maugeri e da Riccardo Trovato. A tutti voi che magari siete in macchina, state tornando a casa dopo una giornata proprio di stanchezza, di stress, di lavoro pesante, è arrivato il momento di scegliere il Marchi Club alla partita Juventus-Barcellona. Esattamente, ecco. Perché questa sera abbiamo davvero un competitor non da poco, ma questa noi sera siamo qui. Siamo superiori, non abbiamo rivali. Anche perché abbiamo degli ospiti che davvero sono una perla, chiaramente per questo. Del Marchi Club. Non per noi come persone siamo superiori, per gli ospiti chiaramente. E soprattutto perché il Marchi Club è l'unico dei format radiofonici che unisce anche durante queste due ore di diretta la musica, però non quella così passata solamente dal, diciamo, un po' dal database, come si fa in tutte le radio e anche a Radio Etna Espresso, ma il martedì tra le 21 e le 26 di sera la musica su Radio Etna Espresso va in onda live, perché i nostri ospiti, le band e gli artisti che vengono ad esibirsi di volta in volta ogni martedì ci regalano appunto delle esibizioni live qui dalla Space Music di Acireale in via Sciarelle numero 93. Questa sera con noi ci saranno, do a te ovviamente l'onore di presentarci. Ci sarà una band con una storia ultra decennale, famosissima in tutta la Sicilia, e non che solo. Dopo spiegheremo un po' cosa hanno fatto, cosa non hanno fatto. Sono i Beddi, detti anche musicanti di Sicilia. Capiremo tra poco perché, almeno è un po', diciamo, un altro dei loro appellativi. Ma cominciamo con la musica e rimaniamo sempre in tema di artisti siciliani. Vuoi presentarla tu, perché meglio sai col siciliano un po'. Questa è la, diciamo, la cantantessa per eccellenza, è Carmen Consoli con Afinescia. Marchi Club, l'unico club di musica live in diretta radio. Su Radio Etna Espresso, ogni martedì dalle 21 alle 23, Marchi Club. Marchi Club. Sembra alla finestra, è vero, gente che fu riappasciata, gente bella, l'aria allegra, mogiosa e sedriata, gente riputtuta, con la cicchia esata e bocca scetta, tu ho voglia di qualcosa, un bassa bocca, un lemon soda, e tu già rispondi, Giuse, quando ti chiamavi Giuseppina, eri le cappabrio sciacca granita, tu rituna fattusciata, e ora che sei grosso imprenditore, tanzignara classe in do parlare. Sogno sembra alla finestra, è vero, gente spacinata, sto agata nei banchini della piazza, sto terzo ma sigaretta, gente casa inconcia e dice ciao con Natale, gente casa all'asca, gente casa abbraccia e poi si vasa, gente casa fascia in genna cigna, si sciapazza e non si pinna, non gasta altro inverno, non si canta missa, gente casa falli in canna sarda, ma ci fa fuori a tavola con sada cucumana. Chi c'ha vidi d'Italia e una vita a cui pensare, a me un poco di che fare, e da venne a travagliare con i vecchio indispettito, avevo vinto a rero vitro, io ci dico ma scusati, chi sta la mia casa e stai o ne me pare. La domenica mattina dai a to parlanti della chiesa, voci pace coppola, nancione case trasi dentro l'ossa, peccatori rinunciate a ci piccati della carne, quando diavolo s'appaccia rafforzate via mutanna, quando attacchio della chiesa si posteggia un macchinone, scennesario branchi a tetto dal leone, pace coppola balbette a mocchia l'omelia con tre parole, perché sua maestà sa fare la comunione. Casa panzuttare, sogno sembra alla finestra, è vero aranni civiltà che sta donne turche e pre cristiani si cingevano la mano, tanto si pensava che la diversità e ricchezza, tempi di bellezza, di poesia, di amore e di saggezza, ciò qua stato ieri, oggi forse che potessi ritornare, soggiovamo semi buono di che andare da sta terra, fuoco e mare, oggi sento che mi parlo cuore e dice che le cose stanno per cangiare. Chi c'ha vedi di Italia di una vita di auto a cui pensare almeno un poco di che fare e da venire a ballare e date quattro saute e mi scede giusto per sbagliare, io ci dico con piacere c'è qualche danza scelta che volete consigliare. Abbiamo sentito Carmen Consoli con A Finescia. Al volo ricordiamo i contatti, perché sempre questo programma, ci tengo a precisarlo, è interattivo non solo con i nostri ospiti in sala ma anche con chi ci segue da casa e addirittura con chi ha la possibilità proprio di venire qui fisicamente alla Space Music in via Sciarelle numero 93 ad Acireale. Se non aveste modo di venire qua c'è sempre il 349-850-8509 per dai, mandare messaggi, i messaggi WhatsApp. Voglio prima o poi lo WhatsApp. Imparerai questo numero, anche se pian piano lo sto memorizzando. Ammetto che l'altro giorno mi ha mandato un messaggino proprio su WhatsApp per confermarmi: ah, ma è questo il numero della RAI, stai così facendo progresso. Il giorno, durante la giornata, mi ripeto il numero. Ripeti il numero, così lo imparano anche i nostri radioascoltatori. Ma sai qual è il disco espresso di questa settimana? È quello dei Carbonica, Scappo Via, il nuovo singolo in rotazione dal 21 di marzo, se non vado errato. Sì. E diciamo sì, il comunicato stampa, l'uscita del brano del 21 marzo però. E per tutta questa settimana sarà in rotazione come disco espresso sulle frequenze di Radio Etna Espresso, quindi durante il giorno avrete modo di riascoltarlo più e più volte. Diciamo, lo ricordo, che c'è un certo conflitto di interesse. Lo ricordo giusto appunto perché Riccardo Trovato è il cantante, ma non solo, è anche uno ballerino dei compositori, pure, ballerino, performer dei Carbonica. Quindi 349-850-8509 per scriverci i vostri messaggi tramite WhatsApp, in alternativa alle nostre pagine Facebook c'è quella di Radio Etna Espresso, a cui ovviamente dovete schiacciare quel tastino del mi piace, ma ovviamente c'è quella del Marquee Club, quindi seguiteci anche perché avrete modo di vedere tutte le live, le foto, le notizie, le anticipazioni per ogni puntata che noi durante tutta la settimana, non solo il martedì, postiamo, quindi avete davvero modo di seguirci anche lì in maniera più interattiva. I nostri ospiti sono già qui pronti e carichi, perché alla Space Music per il Marquee Club questa sera ci sono i Baddi. Dalla sala chi c'è? Davide Russo. Già Urso, pronto? Scusami, Davide Urso. C'è Davide Urso solo, perché l'abbiamo ragazzi... fuori. Mi scusa questo, non so perché la lingua si è... Vabbè, mi chiamo... Un po' impamminato. Secondo me dice proprio una cosa, mentre lo dicevo ho detto ma cosa sto dicendo? Non ti preoccupare, d'Urso, Russo, in tutti i modi. Comunque mi chiamo Urso e i ragazzi Urso. Si sono ammutinati, mi hanno lasciato solo per adesso. Ma, ora ma hanno... Adesso arrivano, hanno da qui... fare in questo momento. Stanno... Perché qui davvero fa facciamo tutto live e anche direi che anche giusto, Davide, perché voglio dire l'orario. Mi permetti di presentare un attimo la band? Sì, sì, io volevo dirti scusa se vi parlo di sopra perché non vi vedo, quindi non posso interagire con voi. Questo perché? Perché alla Space Music noi abbiamo due postazioni, una è qui per la diretta radiofonica, i ragazzi sono proprio accanto, però ovviamente hanno tutta la strumentazione di una sala, quindi hanno tutti gli amplificatori, gli strumenti, e siamo qui a fare questa cosa in contemporanea, perché è uno dei pochi format appunto che riesce a unire la musica live e originale dei nostri artisti che ospitiamo ogni martedì e la diretta radiofonica, grazie al nostro Marco Bertani che ci gestisce, ci indica, ci orienta. Fantastico. E come dico sempre, ci indica la strada. Ci supporta e ci sopporta. Vai Riccardo. E allora i Beddi, si tratta di una realtà musicale siciliana, è un percorso ultradecennale che nasce intorno al 2005 se non sbaglio, con lo scopo di riproporre la musica siciliana tradizionale di ricerca. Da quel momento inizia un'evoluzione stilistica di questa band che ad oggi non si è fermata. Nel 2006 il loro primo lavoro dedicato a Rosa Balistreri è dal titolo Canti e Cunti del Natale Siciliano. Nel 2007 partecipano alla realizzazione di un DVD documentario sulla Sicilia, Barocco e Mascheroni. Nel 2008 si rinnova la line up della band, entra un nuovo frontman che è Mimì Serantino. Col nuovo frontman inizia un nuovo percorso e anche un nuovo lavoro. Nel 2008 viene pubblicato Piyoku e Piamuri. Giusto. Non ho un ottimo siciliano io, però insomma, no, Pio che Pamuri va benissimo, sto io cercando che di ho provato non... a leggere, ma ho detto lascia Riccardo perché non la faccio parlare in Sicilia perché magari non riesco. La ci racconti piano piano, magari se la devi dire tutta la biografia. No, io riassumo. Vabbè, tutto per però insomma siccome ho studiato devo dimostrare. Brava, che ho studiato, ha fatto i compiti a casa. Quindi con questo lavoro diciamo loro cercano un po' di rendere la musica siciliana un po' più attuale. E nel 2010 i Beddi vincono l'11ª edizione del Festival della Nuova Canzone Siciliana. Viene pubblicato Sicilia Zero. Tarantella Blues è il brano un po' centrale di questo lavoro. Nel 2012 i Beddi compiono un ulteriore step evolutivo. Mi piace raccontarla così. Disco. La racconto un po' in modo darwiniano. No? Ho studiato bene. Step bene. Evolutivi. La musica dei Beddi si avvicina e si contamina parecchio con altri generi musicali. Possiamo a questo punto dire che con questo step loro si avvicinano parecchio alla world music. Bravo. Il lavoro, come si chiama? E fa la bedda la ninna redda. No, stavi raccontando del terzo disco, Sicilia Zero, o sbaglio? Sì, no, sto andando man mano avanti, avanti. No, che poi uno si confonde, giusto? Viene pubblicato quindi un altro lavoro che è Falla Bedda, la Ninna Redda. Nel 2014 i Beddi ricevono due premi importanti. Il premio Cruillas, conferito all'Associazione Culturale Sicania, e il premio Corrado Maranci. Insomma la biografia è lunghissima. Nel 2016 viene pubblicato l'ultimo lavoro che è quello che oggi un po' magari loro ci racconteranno di presenza. È un suono totalmente rinnovato della rivoluzione e di altri folklorismi. Un disco che vede oltretutto la partecipazione di diversi personaggi a noi noti, ad esempio Santi Pulvirenti o Rita Botto. Il genere musicale diciamo subisce un'ulteriore evoluzione. Ecco, possiamo dire che nasce un genere nuovo che si chiama Sicily Unconventional Folk. Ah, hai studiato veramente? Eh sì, ho studiato tutta che la settimana. Schiaccia un po' l'occhielino anche, vabbè, un po' diciamo al mondo più anglosassone. Allora, almeno Davide, come titolo. Adesso io direi facciamo così, siccome c'è tanto di cui parlare, specie sull'ultimo disco e sui featuring, cioè diciamo le collaborazioni all'interno di questo, facciamo così, siccome non vogliamo proprio parlarne veloce perché merita il tempo che ci vuole, e facciamo così, ci fermiamo un attimo per la pubblicità e ci ritroviamo qui con i Beddi, giusto 2 minuti, restate in ascolto di Il Marchi Club. A dopo. Marchi Club, l'unico club di musica live in diretta radio su Radio Etna Espresso, ogni martedì dalle 21 alle 23, Marchi Club. Marchi Club. Con Ulisse, sono sicuro di trovare quel che cerco tra le scarpe di Ulisse.

dammi su un nome bella, dilli rose, lo meglio c'ore nel paradiso, bella figliola che ti chiami rosa. Bella figliola che ti chiami rosa. Saluto strada con una pampallo cuore e voce ardita, loro saluta di a finestra amata che rincia c'è una rosa colorita, rosa che di lì rosa ammuttunata, rosa tenuto un piede la mia vita, passo di notte ti saluto. Stampata che rincia c'è una rosa colorita, te posso offrire solo una cantata, solo sta voce mi dette la vita, poeti su una curia stampa, santi campano sempre povere e pizzenti, passo di notte ti saluto già. Abbiamo sentito i Concerto, Mo Carta, abbastanza conosciuta. siamo cresciuti con questo brano. La conosci pure tu, allora? Certo, abbiamo suonato. E allora, Davide, ma dimmi. Mi sa che ho studiato male, ho sbagliato qualcosa. No. Volevo dirti che volevo fare una puntualizzazione, una precisazione. Noi abbiamo vinto il Festival della Canzone Siciliana nella nostra categoria che si chiamava Premio Trinacria. C'erano 12 gruppi. Mentre l'altra parte del festival, il Premio Sicilia, l'ha vinto Vincenzo Spampinato. E ahimè, devo dire che quello fu l'ultimo anno che c'è stato il festival. Poi non l'hanno fatto più e è stato veramente un peccato, perché ci voleva un festival della musica, della nuova musica siciliana, insomma. Sì, dobbiamo dire anche che comunque ha una certa utenza di ascolto, c'è numerosa qui in Sicilia, e non solo, perché comunque abbiamo visto che tante realtà che propongono musica siciliana a volte hanno più possibilità di esibirsi o anche addirittura di essere ascoltati fuori anche dall'Italia. Assolutamente sì, noi abbiamo fatto vari tour, è il momento di parlarne o ne parliamo più avanti? Ne parliamo dopo. Io ho studiato anche da questo punto di vista. Bravo. Studio una settimana, finisce la puntata, io da domani inizio a studiare sugli ospiti della prossima puntata. Bravissimo. Nel caso vostro c'era tanto da studiare, quindi è un po' generoso il carico di studio. Siccome sei una persona seria, se abbiamo bisogno di qualcuno magari ti ingaggiamo, va bene? Per cosa? Per studiare? No, per presentare soldi menti, dicevo manager, ma io vi lancio, va bene? Allora, a parte c'è qualche altra precisazione che vuoi fare, oppure iniziamo ad ascoltare un po', sì, a capire cosa, sì, che musica fa? È un po' strano il nostro percorso discografico, perché noi abbiamo fatto un primo disco tematico sul Natale, quando c'era la vecchia cantante che si chiamava Simona. Poi dopo abbiamo rifatto lo stesso disco di Natale, cambiando alcuni brani, con la nuova band. Quindi in effetti abbiamo fatto cinque dischi, due di Natale e invece tre che sono quelli che io conto come dischi dei Baddi. Ma a sto punto me lo fate un disco sulla Pasqua, scusa. Cioè, arrivano le vacanze, qua c'è il Natale, iniziamo a farne un altro. Guarda, ovviamente scherzo, no? Abbiamo perso due date a Pasqua perché non avevamo i canti della Pasqua. Perché stiamo organizzando delle cose a Catania. Siete work Pasqua. In progress. Sempre. Però qui al Marchi Club la vostra musica ce l'abbiamo già. E meno male. Ce la iniziamo ad ascoltare, soprattutto per i nostri radioascoltatori, per chi ci sta proprio seguendo in questo momento. Iniziamo così a capire chi sono sì, i Sì, belli. Ma un attimo prima di fare ascoltare il brano, va precisato che questo è un brano nuovo. Questo è un brano lavoro, del disco nuovo e abbiamo avuto l'onore di una grandissima collaborazione di Rita Botto. Vai, puoi andare. Una nota sfortunata. Ora cominciare a uscire dalla notte, che già l'ansia mi attanaglia di sbagliare. Deve il vento cominciare a raccontare dell'incanto di quel viso che mi cambierà. E allora metto in gioco la paura, senza alcun riguardo per sorte e fatalità. Questa è la ballata di una nota sfortunata, uscita fuori scala, percepita un po' stonata. Uscita fuori scala, percepita un po' stonata. Ma fuori dagli schemi questa nota tormentata, più bella di una settima davvero mi è sembrata. Da un suono difettoso che nasconde disappunto, è nato un generoso insolito refrain, è nato un generoso geniale contrappunto. Deve il sole ancora cominciare a entrare nella notte, che la gaffa è già fatta meraviglia. Il vento ha appena cominciato a raccontare di un amore, di uno sguardo che mi eleverà. E allora smetti di giudicare, giudice, quello che sconosci ti sorprenderà. Questa è la battaglia di una nota sfortunata, uscita fuori scala, percepita un po' stonata. Uscita fuori scala, percepita un po' stonata. Ma fuori dagli schemi questa nota tormentata, più bella di una settima davvero m'è sembrata. Non sono difettoso che nasconde disappunto, è nato un generoso insolito refrain, è nato un generoso quale contrappunto. Lucenti, paragone o nanonenti, lucenti stiddi, oi quanto sono stocchio zippetti, fiori d'arancio, lo tuo amore non lo cancio, fiori di fiori, non lo cancio lo tuo amore. Sì, con una nota sfortunata, uno degli ultimi brani usciti inediti dei Bad, giusto per avere così una piccola, un piccolo anticipo, un piccolo assaggio di quella che è appunto la musica dei Bad. Anche perché, Carla, molta gente che ci ascolta li conosce già, perché comunque una, è una realtà rodata, molto rodata. Hanno e quindi a noi è sembrato carino far sentire oggi la band come si presenta e come si è evoluta. Il sound nel è tempo. Molto c'è della musica pop dentro a questo folk, ci sono tante altre cose. Contaminato, ecco, così. Direi che questo è il termine. Ragazzi, ci siete in sala? Siamo qua. Ora tutti. Ecco, ora siamo tutti. A questo punto, buonasera a tutti voi. Ciao, perché ciao, siamo davvero, ci siamo tutti. Prima di presentare il resto della band e tutto il resto, noi abbiamo sentito un brano, una nota sfortunata. Infatti, che significa una nota sfortunata? Cosa significa? Mi volevi chiedere proprio questo. Sì. Allora, è un brano molto particolare perché parla di disabilità. Però parla, è quasi, io dico quando faccio gli spettacoli, è una diapositiva, è una fotografia con un taglio diverso sul mondo della disabilità, quindi vista da un altro punto di vista. Quindi questo bambino che nasce, all'inizio sembra qualcosa di brutto, però man mano che passa il tempo uno vede che ci sono delle cose bellissime e delle risorse meravigliose anche in questi bambini. Io tra l'altro faccio anche l'insegnante di sostegno oltre al musicista, e quindi ho raccontato dalla voce di una madre o di un padre questo percorso, e poi alla fine c'è questo Shuri particolare che canta Rita, quindi questo Shuri, questi versi d'amore, dice: io non, questo figlio, non, questi occhi belli non li cambierei mai per nessuna cosa al mondo. Ed è davvero una canzone stupenda, ma soprattutto il significato che racchiude è davvero un nobile pezzo per un nobile sentimento. Io te la butto proprio, ve la butto proprio lì così a bruciapelo, direi che è il momento anche di ascoltare la vostra musica. Però questa volta a me piacciono le cose a sorpresa. Prima facciamo sentire un brano live e dopo presenti la band. Quindi io direi di andiamo fare un po' il primo così brano. Momenti invertiti. Quindi presentateci questo primo pezzo live, perché i Bad questa sera sono qui a suonare la loro musica alla Space Music di Acireale per il Marchi Club. Introduceteci questo pezzo e andate, regalateci la vostra musica. Abbiamo deciso di fare il primo brano del disco, che è anche il primo brano del live. Si intitola Quattro Santi e vedrete che in questo brano c'è anche tanta lingua italiana, come anche in una nota sfortunata, e questo fa parte della nostra nuova evoluzione, quindi scrivere con nuovi generi contaminando il folk e scrivere in due lingue, il siciliano e l'italiano. Per voi, Quattro Santi in Paradiso. Mia rivoluzione, un paio di scarpe, un'intuizione generata su due piedi, nuda e oltre la mia anima fresca ancora in garanzia, certo a volte un po' animata di passioni e goliardia, certo a volte un po' animata di passioni e goliardia, di cacao e cioccolatini, è la mia rivoluzione, oh Emma magari una battaglia coi cuscini. La saluto col sorriso, sbaglio spesso mio malgrado, sono di solito scusato. Non conosco delinquenti, preferisco frequentare matti pazzi ed efficienti che non riescono a ingannare. Matti pazzi ed efficienti che non riescono a ingannare. Mi diletto a ricercare la volontà del buon umore e non ho santi in paradiso da sfruttare. Manevoli se uno vero protettore, vedo santa forma d'angelo cullari, mi vedono loro raggio di parrari, quando giuva si ci vuole cacci voli, quando giuva si ci vuole cacci voli. Liti e seguaci, né consigli perspicaci, niente prediche e sproloqui, parlo per sintagmi innocui. Non ho culi sul comone, pure cuori da curare, non ho il fegato ingrassato, denti aguzzi da sbiancare, non ho il fegato ingrassato, denti aguzzi da sbiancare. Ho insegnato alla mia lingua come fare a non ferire e non ho palpiti affannati da calmare. Bisogno dei miei eroi mi sento degno, non ho sogni indecorosi, bramo quelli fantasiosi. Tra tutto ciò che esiste da poter desiderare, prediligo concupire, pace, arte, acceso ardore. Prediligo concupire, pace, arte, acceso ardore. Raramente ho nodi in gola, oppure miti da sfatare. Ho quattro santi in paradiso da sfrattare. Manevoli se uno vero protettore, per tua santa forma d'angelo collari, mi vedono loro raggio di barrare. Quando giuva ti ci voli, cacci voli, quando giuva ti ci voli, cacci voli. La Sicilia traslochi. Trasportiamo delicatamente le vostre cose e case. Smontiamo, rimontiamo, imballiamo, modifichiamo nei nostri laboratori mobili e cucine. Personale qualificato e la copertura assicurativa vi garantiscono la massima serenità in tutte le fasi del trasloco. Sopralluoghi e preventivi gratuiti, scala mobile, viaggi settimanali da e per il nord. La Sicilia traslochi, via Veneto 52 a Cireale. Per info www.traslochilasicilia.it. A Cireale 095 89 16 45. Catania 095 36 54 45. Giarre 095 93 19 47.

Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano. Fabrizio De André con Bocca di Rosa, ovviamente grande pezzo, famosissimo. Questa sera, credo il più famoso di questa sera stiamo facendo ascoltare delle cose abbastanza diverse da quelle che abbiamo fatto sentire solitamente nelle scorse in queste puntate del Marchi Club. Allora, il nostro programma si caratterizza anche per questo, l'imprevedibilità. Scusa, no, c'è il mio naso che inizia a fare strani friuli. Pensavo che il tuo naso aveva sbattuto con la ho sentito un po' di fischio, no. Ho detto cos'è sto fischio, era il mio naso. Ma ero io che stavo fischiando mentre parli. Sì, riesco a fare questo fischio, certo. Parlo insieme. Ti ho interrotto ovviamente come al mio solito, vabbè. Mentre fischiavo. Ecco, è il momento di un attimino prenderci una piccola parentesi, perché se questo programma è giunto alla seconda stagione ed è stato messo su e continua in questa seconda stagione, in cui davvero vi proponiamo anche tante cose nuove, tanta musica nuova, ci siamo aperti ancor più musicalmente parlando, e soprattutto grazie a chi ci permette di essere qui in diretta ogni martedì tra le 21 e le 23. Quindi grazie alla città di Acireale, al sindaco, l'ingegnere Roberto Barbagallo, e l'assessorato alle politiche giovanili, perché ci mettono a disposizione la Space Music, che è un centro musicale e culturale in cui voi ragazzi, e anche giovani e meno giovani che avete una band, potete venire a provare grazie alle nostre due sale prove, e soprattutto anche a registrare i vostri pezzi, i vostri dischi, perché il nostro fonico, che ringraziamo in particolare ogni martedì durante il Marchi Club, perché colui che si chiama Giuseppe Pandolfo, l'avrei detto dopo, me lo presenti dopo, che cura la regia fonica dei nostri ospiti, e ringraziamo anche tutto il gruppo di Etna Espresso e il nostro direttore Giulio Vasta, che salutiamo, ci starà ascoltando come sempre, Marco Bertani, che è qui in regia a supportarci e sopportarci, come dico sempre io, durante queste due ore, non solo perché poi il lavoro dietro è tanto, non solo durante le due ore di chi sta dietro deve lavorare sempre il nostro di altro più. Tecnico Salvo Rabisarda, e poi ringraziamo ovviamente il nostro sponsor. Chi ci supporta questo mese è la palestra Vigor School del maestro Antonino Mascali. È un pezzo di storia del fitness acese, perché ha quasi 40 anni di attività, di esperienza nel settore, e quindi è davvero un pezzo di storia di Acireale. Per tutto il mese di aprile, a partire dal 1 di aprile, è in corso una super promozione. Potete abbonarvi per un intero anno, inclusa l'iscrizione, a soltanto 150 euro se ti iscrivi singolarmente, e soli 250 euro ovviamente da dividere in coppia, per un'iscrizione appunto doppia, quindi in due. Il servizio è tutto incluso, quindi avrete accesso ai corsi di Zumba, Total Body, Pilates, Step, Sauna, servizio personalizzato in sala e accesso open e limitato tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 22:30. Potete anche approfittare ovviamente della promozione per iscrivervi con un amico, con un fidanzato, che anche con la nonna. Tipo io e Marco Bertani che andiamo a fare Zumba. Di tutte le età, perché no? Avete accesso anche alla Zumba, non ci sono discriminazioni di sesso, diciamo. Vabbè, qua ora iniziano i commenti, la Zumba è da femminucce. Non è vero, non solo. è per le femminucce, vabbè, l'abbiamo detta così. Quindi 150 euro per l'abbonamento del singolo, e 250 euro se vi iscrivete in coppia. La Vigor School è ad Acireale in via Bellini numero 18, una traversa di via Salvatore Vigo per chi magari fosse un po' meno pratico di Acireale, e su Facebook la pagina Vigor School Acireale. Quindi, visto che arriva l'estate, con 250 euro io e Giovanni ci andiamo a fare zumba. Esatto, no. Dal 1 aprile per tutto il mese di aprile avete accesso open, quindi limitato, a tutti i corsi, alla sala, tutti i giorni negli orari che vi abbiamo detto. Domani ci iscriviamo. Domani dovete essere di parola, eh? Zumba, vi iscrivete a Zumba, va bene. Dopo aver ovviamente ringraziato i nostri sponsor, vi ricordo, voi che siete in ascolto, che gli ospiti di questa sera sono i Baddi e sono qui in sala con noi, ragazzi. Hello. Scusate, un po' vi sarete annoiati, no? No, secondo me, allora, così non parla sempre Davide che già ha perso la voce. Qui da questo lato io sono Mimì Serrantino, la voce dei Baddi, si sente che sono la voce? Sì. Ok. Niente, io volevo. Presentatevi tutti, man mano poi a giro, così abbiamo modo di sentirvi tutti. Va bene, allora vai, io voce chitarra, presento io o ti presenti da te? No, mi presento io, okay. Io sono Giampaolo Nunzio, suono gli strumenti più popolari, diciamo, di tutta la sessione. Sono l'organetto, la zampogna, il friscaletto, fiati vari, marranzani, mandolini, insomma un po' di tutto. Certe volte sono anche abbastanza confuso. Passiamo. Polistrumentista, possiamo dirlo, sì, senza indugio alcuno. Polistrumentista, sì. E messinese. E chi c'è? Che ci lega particolare. Io sono Alessio Carastro, percussionista e batterista. Oh, che bella voce che ha, dovresti anche cantare. Lo faccio a casa. Sotto la doccia. No, al pianoforte. Bene, meglio. Poi ancora chi abbiamo? E io sono Francesco Frudà, suono la chitarra elettrica e il banjo. Fammi indovinare, sei quello più posato del gruppo, a giudicare dal posato. No, scherzo, dico caratterialmente. A giudicare almeno dall'intonazione. Diciamo. Ecco. Ragazzi, se ci siete, siete pronti, abbiamo tanto ancora per chiacchierare, tanto tempo a disposizione, abbiamo almeno un'altra ora abbondante, quindi io vi inviterei a regalarci un altro pezzo live, non solo per noi che siamo qui alla Space Music, e per chi ci ha raggiunto nel frattempo in Via Sciarelle numero 93, perché la sala davvero è aperta a tutti, anche voi pubblico, ma per ascoltare anche in streaming o tramite le frequenze proprio della radio la vostra musica. Quindi presentateci questo pezzo rigorosamente live qui per noi. Allora, per il Marchi Club. Prima di presentare questo pezzo volevamo salutare il nostro bassista che sta male, ha subito un intervento, tornerà. Oggi siete in 5 anziché 6, effettivamente, sì, infatti, giusto e doveroso dirlo. Tra qualche settimana, quindi c'è un periodo per riprendersi. Quindi noi lo salutiamo, gli vogliamo davvero bene, speriamo che si riprenda presto. E il prossimo brano è. Si chiama Pierpaolo Alberghini. Ah, certo, vabbè, ma allora tu che cosa ci stai a fare qua? Mimì, quindi come si chiama? Lo potete ripetere? Il grande Pierpaolo Alberghini, da Catania. Ma non era Albertini. No. Alberghino, alberghiero, lo chiamano in tutti i modi, comunque chiama Alberghini. Insomma, noi presentiamo un altro brano del disco nuovo, è un brano un po' più popolare e si intitola Conza la maglia. Giampaolo, raccontaci qualcosa di questo brano, proprio 10 secondi. Sì, Conza la maglia è un brano che parla della mescolanza, diciamo non è originale questo argomento, però io ho voluto dare un omaggio proprio alla nostra natura di siciliani, che siamo il frutto più di una mescolanza di razze, di culture, di dialetti, di lingue, e quindi diciamo, e poi alla fine diciamo il concetto finale è che però non esiste questa purezza, malgrado la si vada a cercare, noi siamo il frutto appunto di siamo imperfetti, però per questo siamo anche meravigliosi. La musica dei Baddi qui al Marchi Club live. Saluti la ru, un filo bianco e un filo niru, con muti paglia metto un filo d'oro, ci sono un semola di paro, con salatila di 100 colori, le stelo bonus d'un moccaturi. Che la semenza va a scartare, va a dire i frutti in genuine puri, surca semenza.

Abbiamo sentito Irene Grandi, La tua ragazza sempre. Era appena il 2000, ormai sembra davvero lontano. Ricordo questo brano lo portò forse a Sanremo addirittura. Oddio, io onestamente a stento ero bambina, non ricordo. Mi sa di sì, io andavo al primo superiore. Ecco, eri già cresciuta, quasi adolescente. Nel 2000 andavo al primo superiore, quindi fatevi i conti. Ragazzi, siete ancora in sala? Sì. Sì. Io. Allora, io direi, abbiamo presentato, vi abbiamo così, abbiamo chiacchierato un po' alla spicciola in realtà. E volevo giusto darvi la parola proprio per parlare magari di quello che è stata un po' la vostra evoluzione, almeno musicalmente parlando. Qual è stato un po', diciamo, il tutto il processo che di album in album, di anno in anno, vi ha portato a questi cambiamenti, un po' a questa contaminazione che ormai si sente nell'ultimo lavoro di più generi e soprattutto un po' un passaggio appunto su qualche testo anche in italiano e non solo in siciliano. Mimmo, ci vuoi dire qualcosa? Perché ridi? Quasi sempre che abbia detto tutto giusto, che non abbia sbagliato. No, scherzo. No, vabbè, qua ci dobbiamo coordinare un attimo perché sì, siccome siete abbiamo tanti. Tutti tanta voglia di parlare. Allora, no, siamo un po' confrontolini questa. Comunque, vabbè, allora il primo disco che si intitola Piogo e Pamuri, ecco, è per gioco e per amore, ecco, è ricco, stracolmo di brani presi dalla tradizione. da libri e anche da registrazioni fatte da musicologi che poi noi abbiamo così riadattato in modo nostro, ecco. E, insomma, questo è stato il punto di partenza. Nel primo disco il brano originale che poi ci ha in realtà lanciato è appunto Quando vita tia, scritta qua dal mitico cuntore Davide Urso. E mi piace questo termine, sì, cuntore. Pensavo stavi dicendo non solo cantore, ma anche cuntore. In effetti nel primo album c'era un altro pezzo inedito che abbiamo scritto insieme. Scusate la parentesi, vai. Dico perché cuntore, giusto, avete detto con la N, cuntore, mi sa tra cultore e cantore, quindi un bel diciamo un bel mix. Un neologismo. Esatto. Sì. E l'altro pezzo invece non tradizionale è una serenata che abbiamo scritto insieme a Mimì sotto la tua finestra. Quindi vado molto fiero di questa collaborazione e di questo pezzo che... Va bene, allora ve la butto lì la domanda proprio banale. Oggi mi esce così, ma qualche influenza. Buttala lì avanti. Quando poi purtroppo una cosa la senti spesso, buttala, voglio sentirla. Dico, l'avete mai suonata a qualche serenata sul serio, cioè sotto il balcone di qualche giovane coppia che si stava un po' avvicinando alle nozze, ecco. Sì, sì, ecco, sì, immaginavo come... ovviamente. Sì, varie volte ci è capitato, guarda, la più particolare a Valguarnera, Caro Pepe. E dove sta? Carapipi. Scusate l'ignoranza, io che già di geografia, ecco, che okay, entroterra a posto, no, perché entro io già di geografia sono negato. Siciliano, ma ne abbiamo fatte varie anche qui nella zona ad Acireale. Quindi io ovviamente così, poi dopo ne parliamo meglio nei dettagli. Quindi se io volessi fare una serenata, una ragazza, chiamo i Beddi. Una ragazza qualsiasi, una qualunque oppure una... Eh no, vabbè. No, chiaramente seleziono, no? Non è che mi posso buttare così a casaccio. Sì, io sì. Allora così dico, anche questa ve la butto lì, ormai stasera è andata così. Dopo ne parliamo meglio nei dettagli, ma giusto perché voi lo sappiate, vi prenoto per il mio matrimonio. Un giorno, quando sarà, vorrò i Beddi. Perfetto. Okay, sai, a suonare già il tuo fidanzato già li ha prenotati. Se li è prenotati per la serenata, siete già prenotati, ve lo dico. Stanotte non ti fa dombere. Stasera avete trovato pure un lavoretto in più. Vabbè, ecco, se diciamo, ci campavo, per noi è un onore, sarà un onore. Se ci tornando... dice Davide, ne facciamo la seratella. Esatto. Tornando alla vostra musica, scusate la parentesi. Dicevate sul un po' l'evoluzione dei vostri lavori, del percorso musicale che per fortuna da tanti anni fa è iniziato e continua tutt'oggi. Siete magari work in progress per qualcosa di nuovo? State sperimentando altre influenze? Alla grande, guarda, proprio colpisci nel segno, perché abbiamo appena chiuso un contratto importantissimo per noi. In Calabria, sì, abbiamo chiuso il contratto con un manager che poi ha a sua volta contattato un produttore che, avendo ascoltato il nostro disco, si è innamorato di voi. Guarda che cosa strana, nel nostro disco, quello proprio l'ultimo, ci sono 9 brani inediti, e poi qualcuno noi, che ho letto e uno invece. Solo, uno solo che non era che non era nostro, ma era di un certo Otello Profazio. Disco d'oro, interessante pure lui. Disco d'oro e storia della musica popolare d'Italia e mondiale anche. E questo produttore ha detto: vorrei, cioè io è tanti anni che cerco un gruppo per fare un nuovo disco tributo a Otello Profazio con una freschezza e una innovazione particolare, e ha scelto a noi. Abbiamo chiuso questo contratto e faremo quest'anno questo disco tributo a Otello Profazio, e faremo anche naturalmente vari concerti con lui. Quindi piccola anticipazione al Marchi Club, ce l'avete avuta proprio dalla voce dei Beddi, quindi questa piccola chicca che ci è stata qua regalata come anticipazione. Tra l'altro, parlando anche di musica, vabbè, nazionale, internazionale, sempre diciamo rimanendo sul popolare, voi non siete anche andati ben oltre fuori dalla Sicilia, appunto perché i vostri tour vi hanno portato in giro. Per esempio, dove avete suonato fuori dalla Sicilia? Io lo so perché l'ho letto dalla vostra biografia. In Malesia, però... avanti. Paolo si ricorda tutto. Malta, io ho letto Tunisia, Malta, Malesia, Olanda, Spagna, Danimarca, Austria, Belgio e poi vabbè tante ovviamente regioni italiane praticamente. Ma perché tutte. Vedi, Carla, una cosa che qui non capiamo, noi spesso abituati ad ascoltare musica, la musica che passano le radio, la musica che siamo abituati a sentire, e non sappiamo che la musica siciliana fuori all'estero viene vista come qualcosa di così particolare, di così interessante, ma che attrae l'attenzione di tantissime persone che non capiscono neanche una parola di quello che viene cantato, però sono così interessati fuori all'estero che l'ascoltano con grandissimo piacere. Ma anche perché è un genere, diciamo una tipologia di musica, e poi è brutto etichettarla quasi, però diciamo che è un tipo di musica che davvero si presta, perché coinvolge tutti, al di là appunto di dire io non sono siciliano, non capisco una sola parola, però è un ritmo talmente travolgente, specie se suonata dai belli, e specie se sentita live come qui al Marchi Club, ma non solo, perché ho avuto modo di vedervi sul palco del Duomo di Acireale l'anno scorso, e quindi so davvero cosa significa. Una piazza piena, anche qui al Marchi Club questa sera c'è tanta gente, tanto pubblico. Allora ragazzi, io chiacchieriamo tra un attimo, riprendiamo le chiacchiere, perché poi anch'io sono un po' logorroica. E infatti però due aneddoti non ce l'hai fatti raccontare, vabbè, dopo se li raccontate. Infatti Davide mi stava dicendo che eri logorroica, però si è leggermente ma pensavo che stavi dicendo, no, te lo stavo dicendo, è difficile più di me, invece esiste. Scherzo, allora, scherzo, regalateci un altro pezzo live, dopodiché ritorniamo a chiacchierare insieme. Ah, quindi dobbiamo suonare così? E perché sei venuto qua, scusa? Ce la buttiamo così allora. No, non sappiamo quale fare, però allora. Facciamo una cosa. dimmi. Ve lo suggerisco io. Ah, ok. L'armata dei pupi siciliani è qui, il pezzo dei Baddi per noi questa sera al Marchi Club. Ma scusa, ci siamo. Rivoltiamo la rivoluzione, ripariamo la rivoluzione, ribaltiamo la rivoluzione. Le rivolte delle fumi per proteste con lo giummo, che sanno l'onore con lo ghiommo. Lo dissenso popolare con la raggia sopra passo, con sangue dentro all'occhio a foro rosso. E le sante professore fanno finta di sparare, ma già vogliono che porta dei favori, ma già vogliono che porta dei favori. Quella dei seguaci imbelli la dottrina del favore, reazionari fantocci del potere, reazionari fantocci del potere. Ma non siamo marionette, non siamo burattini, siamo l'armata dei tubi siciliani, e la nostra cultura ci hanno eletto paladini, solo perché cantiamo siamo rivoluzionari. Una sottila fa le cianciari, i carabini, chitarra e mendolini, almeno la mema d'amo sono marranzani, pecore scocciati di scaletta e tamburini, pecore scocciati di scaletta e tamburini. Rivoluzioniamo la rivoluzione, ripamo la rivoluzione, considerazioni un po' svampiti, fricchettoni mascherati, quella dei borghesi buoni, nichilisti, disfattisti, razionali, celebrali, imbellettati, che fa farla veramente un estanco, non si sente, l'altro dice che non se ne fa niente, l'altro dice che non se ne fa niente, e allo punto di partire un uccidente, se mi venti, la sua pasta l'intenzione con l'unenti, la sua pasta l'intenzione con l'unenti. Ma non noi, non noi, non noi, non noi, non noi, non noi. Cantiamo siamo rivoluzionari, di notti ballettuna tutti i natali cianciari, di carabini, chitarra e mignolini, almeno la mia mano sono marranzani, pecore scocciati di scaletta e tamburini, pecore scocciati di scaletta e tamburini. Radio Etna Espresso, Marchi Club. Sale la febbre del rock per l'unica data siciliana dei Litfiba, in programma al Palart Hotel di Acireale, il 13 aprile. Spirito libero. Elementari e raffinati, ultrapotenti e sentimentali, esplosivi e romantici. Elettrici e poetici, i Litfiba porteranno sul palco del Palart Hotel di Acireale il 13 aprile la loro storia e i brani del nuovo album Utopia. È un'organizzazione Giuseppe Rapisarda Management. Infoline 095 716 71 86. Una Pasqua conveniente, colorata e profumata nei supermercati Maxi Store e Superstore Deco del gruppo Arena, con le sorprendenti offerte valide dal 7 al 17 aprile. Alcuni esempi: uovo Bauli grandi firme lui e lei da 365 grammi al latte o fondente a 9,90 euro. La colomba tradizionale Bauli da 750 grammi a 1,98 euro. Lasagna all'uovo Emiliane Barilla da 500 grammi a 98 centesimi. Birra Moretti da 66 cl per 6 a 4,65 euro. L'onza di suino a trancio a 3,89 euro al chilo. Ti aspettiamo dal 7 al 17 aprile nei supermercati Maxi Store e Superstore Deco del gruppo Arena. Buona Pasqua! Cerca il punto vendita più vicino a te su gruppoarena.it. Supermercati Deco. Tradizione, qualità e convenienza. Non chiuderti in difesa. Vai all'attacco. La pubblicità resta sempre l'anima del commercio. La pubblicità non è una spesa superflua. La pubblicità evidenzia le qualità della tua azienda e le tue motivazioni. Chiamaci Radio Etna Espresso 095 89 46 16. Vai all'attacco! Radio Etna Espresso. Marti Club. There's no room for you here. There's no room for you here. Wrap your teeth around the pavement, 'cause your body's a message. Send my regards to hell. Say goodbye to your mother, your father, your son. I can hear your pulse racing from here, sitting next to this gun. Beat your heart in your mouth. I got you, I got you. Castillo con Blame qui al Marchi Club. Siamo quasi a metà della nostra seconda ora insieme. Ovviamente è doveroso fare qualche ringraziamento, perché se questo format è giunto alla sua seconda stagione è grazie soprattutto a tutto il gruppo Etne Espresso, che ci ha dato la possibilità di replicare proprio con tantissima voglia, a gran richiesta, questo programma che conduciamo io, Carla Maugei, insieme a Riccardo Trovato. E soprattutto ovviamente un grazie al nostro direttore, che ci ha sempre sostenuti e addirittura incoraggiati ancor più a ripetere questa esperienza e quindi arrivare alla seconda stagione durante questo 2017. Ovviamente un ringraziamento al nostro Marco Bertani, che è qui in regia radiofonica, e a Giuseppe Pandolfo, che invece è il nostro fonico per quanto riguarda i nostri ospiti, i nostri gruppi live, quindi dà davvero quel servizio e quel supporto tecnico di cui non possiamo fare a meno in un format in cui i nostri artisti suonano rigorosamente live. Un grazie anche ovviamente a un altro dei nostri tecnici, che è Salvatore Rapisarda, ma soprattutto grazie alla città di Acireale e nella sua persona soprattutto del sindaco, quindi l'ingegnere Roberto Barbagallo, e grazie all'assessorato alle politiche giovanili che ci mettono a disposizione questa sala, la Space Music in via Sciarelle numero 93, che ci ospita ogni martedì tra le 21 e le 23. Vi ricordo, così giusto per fare qualche nome, che questo programma è giunto anche alla sua seconda stagione ospitando dei nomi davvero importanti della musica del catanese e non solo. Per esempio l'anno scorso sono stati qui i nostri ospiti Niga Radio, gli Archinuè e anche i Mechanical Butterfly, che sono anche i nostri amici, mentre quest'anno abbiamo già ospitato durante le prime puntate Rossella Liano, Sonia Costa, My Bidiel, che hanno aperto questa nostra seconda stagione qui al Marchi Club, ma anche Antonio Monforte, i Beddi, che sono questa sera qui con noi a suonarci la loro musica live. E vi anticipiamo così che sarà un ci sarà ospite. Maurizio Dinastia, che quest'anno si è classificato terzo Sanremo Giovani nella categoria giovani, quindi sarà qui durante questi martedì di musica live sempre alla Space Music di Acireale, che vi ricordo anche è non solo diciamo sede e ci ospita durante il Marchi Club, ma è anche soprattutto un centro culturale, quindi una sala prove aperta a tutti i gruppi che vogliano prenotare una delle nostre due attrezzatissime sale, con a disposizione il nostro fonico Giuseppe Pandolfo per curare un po' gli aspetti tecnici e dare il supporto ai ragazzi più e meno giovani, perché qua davvero circolano band di tutti i generi e di tutte le età, e anche uno studio di registrazione, quindi potete venire a incidere la vostra musica a tariffe davvero vantaggiose soprattutto per i giovanissimi. Quindi vi rinnovo anche andare a cercare la pagina Facebook della Space Music Acireale, perché così potete avere accesso ovviamente a tutti i contenuti virtuali, a tutte le informazioni che desiderate e soprattutto ai contatti. Vi ricordo anche che c'è la nostra pagina Facebook, quella del Marchi Club, quindi basta andare su Facebook, cliccare, schiacciare quel tastino mi piace per entrare in contatto con noi. C'è anche il 349-850-8509 per i vostri messaggi WhatsApp, che leggiamo ovviamente qui in diretta, quindi un altro modo per interagire con noi. C'è la possibilità di venire qui fisicamente in sala ad assistere a queste puntate del Marchi Club in onda ogni martedì sulle frequenze di Radio Etne Espresso e qui fisicamente alla Space Music, ma soprattutto per ascoltarci in streaming se non avete la possibilità di seguirci qui in diretta dalla Space Music. Potete scaricare la nostra applicazione, quindi basta cercare sul vostro store Radio Etne Espresso e scaricarla gratuitamente, e c'è ancora il nostro sito per lo streaming, quindi www.radioetneespresso.it, per ascoltarci da qualunque dispositivo fisso e mobile, ormai davvero da tutte le parti del mondo, grazie alla connessione. Non abbiamo più limiti fisici e anche temporali, perché poi ci sono anche i podcast, quindi potete riascoltarci sul sito di Radio Etne Espresso alla sezione Marchi Club e avete davvero modo di riascoltare anche le nostre puntate. Ma torniamo alla musica dopo questa piccola parentesi, perché i nostri ospiti sono sempre qui in sala. Questa sera ci sono i Beddi, che ci hanno già proposto qualche chicca proprio live. Ragazzi, sì, Allora. Sì. Ah, io so che qualcuno di voi. No. Sì, so che qualcuno di voi voleva precisare qualcosa su quella appunto che è stata la vostra evoluzione musicale. No, qualche aneddoto, quando siamo andati in Tunisia, siamo curiosi. Nella Tunisia, quando suonavamo, c'erano delle persone che ci facevano proprio gli inchini dopo che suonavamo. Non capivamo qual era proprio. Poi abbiamo capito che veramente apprezzavano tantissimo quello che stavamo suonando con gli strumenti che suonavamo, certo, vedere la zampogna lì in Africa non è in effetti una cosa proprio di tutti i giorni. Beh, però infatti. È stato bello. E poi in Malesia cioè noi ci aspettavamo un mondo diverso, noi pensavamo un mondo magari musulmano diverso, invece proprio abbiamo acchiappato il Borneo, l'unica parte cristiana della Malesia, e vedere veramente 7-8 mila persone che si rotolavano nel fango in costume. Wow, sì, festival, una di quelle cose che rimane impressa. Cioè. Sì, non c'eravamo solo noi, c'erano due palchi enormi. Anche voi vi rotolavate. Noi eravamo. Scommetto, anche non c'eravamo solo noi. Due palchi enormi incastrati proprio nell'inizio di una foresta, e questo spazio enorme. Che siccome lì piove ogni mezz'ora più o meno, proprio si fa fango e la gente si diverte. Cioè. Col fango. Sì, che bella cosa. Una cosa strana, però un aneddoto. A contatto con la natura in tutti i sensi. Cioè, se noi cerchiamo di divertimenti a volte complicati, difficili, e lì basta poco. C'è chi si diverte con poco. Qua tanto per come sono combinate le strade, a breve se lì con la pioggia magari riusciremo anche noi a divertirci così. Quando riusciremo a fare un festival come quello, cosa vi è successo? No, l'abbiamo raccontato, questi qua in Africa che si inchinavano dopo che suonavamo, tipo un segno di rispetto e anche di ringraziamento, essendo dopo una performance, sì, cose belle. Insomma, la cosa più bella suoniamo? È capitata. Dimmi. A delle ragazze francesi che suonavano. Ah, sì, questo è. Sì, c'era un festival, c'erano diversi gruppi, c'erano se due ragazze francesi, sì, che dovevano esibirsi, una suonava il clarinetto se non sbaglio, e l'altra il pianoforte, quindi arrivate lì, giustamente il pianoforte mica se lo potevano portare. Certo. E quindi un po' ingombrante. A un certo punto gli organizzatori non si trova sto pianoforte. Guardate, il pianoforte non l'abbiamo trovato, sapete c'è una chitarra. Aia. Allora, a un certo punto, ragazze, ho detto, ma che cazzo è? Come faccio in Malesia? Erano molto organizzati. È rimasta la solista in pratica. L'hanno trovato. Molto disorganizzati, due mondi completamente opposti. Come hanno trovato il pianoforte? Sì, l'hanno trovato. Ne hanno racimolato uno così all'ultimo minuto. Elettronico, diciamo, ecco. Così era messo dentro magari uno zaino, non lo stavano vedendo. Ah, no, un po' la per i poppi. Ma questo è un pianoforte? Io pensavo che era un termosifone. Vabbè, non so cose che succedono. Può capitare. Cose strane che capitano. Anche in Francia, ecco. Cioè, che pensiamo che siano tutti precisini, poi in realtà vabbè, ogni tanto qualche gaffla combinano pure loro. Ma tornando alla vostra musica, se voi ci siete pronti, io direi di ascoltarci un altro vostro pezzo suonato qui live per noi al Marquee Club. Sì. E ovviamente ce lo introducete. Allora, abbiamo parlato prima del Festival della Canzone Siciliana che abbiamo vinto nella nostra sezione Premio Trinacria, e il brano è proprio questo, si intitola Tarantella Blues, è uno dei nostri primi brani contaminati, è uno dei nostri primi brani dove c'era la lingua italiana e la lingua siciliana insieme, e insomma è un brano inedito scritto dai Beddi, Tarantella Blues per voi. Sotto un cielo passato di stette, verso le canne tambure di pette, balla a forriare in tali vanette, basta danzare le tarantelle. Sotto un cielo velato di stelle, verso le canne tambure di pelle, nelle viuzze sto per ballare, ombre danzare le tarantelle. Ghetto sangue porta croci, ma sta terra nulla lasso. Sao da palle che tuci, ma sta terra nulla lasso. Questa terra mare duci, nulla lasso, nulla lasso. Le cose sto, io mi lamento, e a sto momento sogno scontento. Un milione di gente bagascia, c'è coda imbrogli e coda liscia. Tarantella blues, questa terra vol. Tarantella blues, questa terra vol. Tarantella blues, questa terra vol. Tarantella blues, questa terra vol. Da lasciato 6 milioni di monne, tante barrate mescate dell'anno, il lorde cantore, le suonatore, delle antiche ci contano storie. Nei virgoletti milioni di mondi, lingue mischiate, dialetti bastardi, dei nostri ave durante la festa, senti i cantori narrare le gesta. Jetto sangue porta croci, ma sta terra non la lasso. Sao da palle che tu voci, ma sta terra non la lasso. Di sta terra mare duci, non la lasso, non la lasso. Ogni poco cancio giavaglio, mese in campagna e mi sento paglio. Pidolere no piatto no letto, tutti giorni a fare lo botto. Tarantella blu, questa terra vo, tarantella blu, questa terra vo, tarantella blu, questa terra vo, tarantella blu, questa terra vo. Mattina c'oro de mura, mentre non s'affaccia giù, e la sera alla finestra c'oro de vento, c'oro de mare. Al mattino d'ore di mora, mezzogiorno si chiude un fiore, tutte le sere alla finestra so che c'è santa la pezza del mare. Ghetto sangue porta cruci, ma sta terra non la lasso. Sao da palle ghetto voci, ma sta terra non la lasso. Questa terra mare duci, non la lasso, non la lasso. Una volta mi dissero camminai a chiedere, una volta mi dissero dovresti andare, dovresti andare. Casi niente poi che corresti, se ce ne andiamo poi chi rimane. Tarantella blu, questa terra può, tarantella blu, questa terra può, tarantella blu, questa terra può, tarantella blu, questa terra può. Tu ce l'hai l'Ecology Dry? No, non è solo un'asciugatrice. È un nuovo sistema igienizzante che toglie tutti i residui, anche di sapone, che restano sulla nostra biancheria dopo lavata. Bastano solo 5 minuti di Ecology Dry per avere molti dei vostri panni pronti da stirare o per un'asciugatura rapida. Ecology Dry penetra nella tramatura dei panni, rendendoli più morbidi, attraverso il processo di ultracentrifugazione, circa 3 volte più potente di qualsiasi lavatrice. Ha un sistema TBS per la sicurezza e, a differenza di un'asciugatrice che ha bisogno di un ciclo di almeno un'ora con un consumo medio di circa 30 centesimi a ciclo, Ecology Dry consuma circa 1 centesimo a ciclo. Per info chiama lo 095 779 2512. Gama Group 095 779 2512. Non chiuderti in difesa. Vai all'attacco. La pubblicità resta sempre l'anima del commercio. La pubblicità non è una spesa superflua. La pubblicità evidenzia le qualità della tua azienda e le tue motivazioni. Chiamaci Radio Etna Espresso 095 89 46 16. Vai all'attacco! Radio Etna Espresso. Marti Club. così. Con tante finestrelle colorate e una donnina piccola così, con due occhi grandi per guardare bene. E c'è un omino piccolo così che torna sempre tardi da lavorare. E ha un cappello piccolo così, con dentro un sogno da realizzare. E più ci pensa, più non sa aspettare. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita è una catena, qualche volta fa un po' male. Guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, stando sempre attenta al lupo. Attenti al lupo, attenti al lupo. Giù c'è un prato piccolo così, con un gran rumore di cicale, e un profumo dolce piccolo così. Amore mio, è arrivata l'estate. Amore mio, è arrivata l'estate. E noi due qui distesi a far l'amore, in mezzo a questo mare di cicale. Amore piccolo così, ma tanto grande che mi sembra di volare. E più ci penso, più non so aspettare. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita è una catena, qualche volta fa un po' male. Guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, sempre attenta al lupo. Attenti al lupo, attenti al lupo. Attenti al lupo, vai, continuano ormai. No, ma facciamo insieme alla canzone. Sempre qui in diretta dalla Space Music di Acireale per un'altra puntata del Marchi Club che è quasi giunta alla fine. Concluderemo alle 23, però c'è ancora spazio per la musica e per i nostri ospiti che quest'oggi sono i Baddi. Ragazzuoli, lì ci siete in sala? Sì, siamo arrivati. Siete arrivati? Dove siete stati? Abbiamo fatto un giretto. Sì. Ecco, si sono andati a documentare sulla partita. Giustamente questa sera c'è Juventus Barcellona, quindi come va? Vince la Juve, vince la Juve. Quanto vince? 3-0, 3-0. Quindi giocava la Juventus con Barcellona. Col Catania. Può essere. No, io sono un esperto, quindi lo sapevo che giocava la Juventus col Catania. Tu che sei esperto, ma il Catania ci è arrivato mai in Champions League? Tantissime volte, quasi sicuramente. Un anno sì, un anno no, ok. Esatto, l'ha pure vinto, più sì che no. Vabbè, okay. Comunque. Sì, il Catania gioca nel campionato spagnolo, oltretutto, so tutto. Tornando alla vostra musica, ragazzi, perché Davide ci teneva a spendere qualche parola per un brano in particolare. Il prossimo brano, che è l'ultimo di questa sera, ma in genere anche il finale del nostro live, si intitola Quannu Viru Attia, abbiamo già detto, quindi brano Mimì ha raccontato qualcosa del primo album Pio che può muri, dove c'era questo brano inedito. Del resto, cioè, o in effetti questo brano è la nostra figlia o il nostro figlio prediletto, perché ci ha portato tanta tanta fortuna. È stato già inciso da 4 gruppi in Calabria, quindi che hanno messo questo brano nei loro dischi, e noi siamo a conoscenza già che una 50 di gruppi in tutta Italia la fanno come cover dei Beddi. Urca! Sì, sì, una 20 sono su YouTube, quindi potete pure vederlo. E poi è anche il testo è inserito in un libro di antologia in Germania per l'insegnamento dell'italiano all'estero, quindi sia in siciliano che nella traduzione letteraria in italiano. E ci sono anche altre cose, è stato come sigla di vari festival, anche cinematografici, ma non mi dilungo, comunque è un brano per noi davvero importante. È un canto d'amore, racconta un po' quello che succede quando si vede passare una meravigliosa donna dalla nostra terra di Sicilia. E il cuoricino inizia a battere, ovviamente. Sì, uno inizia a saltare, poi non capisci niente, la fantasia già vola, comincia a pensare a delle cose strane. Ha delle fantasie, ovviamente, brava, più fantasia. Che belle e positive. Ovviamente è a questo punto il nostro cuore batte per la musica e questa sera per quella dei Beddi, quindi suonatecelo live. Perfetto. La mattina non c'è soli, e mi sconza su dolore, e la sera non c'è fresco come astuta sto desiderio. La notte non è giorno, ma lo stesso marro sbiglio, la fame scompareo e la sete se ne. Quando veda ti, cincio petto caguarì, quando veda ti, salto passo unta la via, quando veda ti, scordo tutta ve Maria, quando veda ti, mi si sboda fantasia. Ricotta, che uno pazzo le viscotta, lo sforno vanno in buono, non te canta e non te sono, non coglio più lo mele, non te visto male, a gramigna anta la vegna, la racina mi compoglia, quando veda a ti, cincio perto capolì, quando veda a ti, sono passo anta la via, quando veda a ti, scordo tutta me Maria, quando veda a ti, me se spoda fantasia. Dice te a me conosci, per la danza dopo passo, io sto ballo te lo lascio, non sento manco freddo, d'amore me commoglio, potente come brace se lo sole che brucia, quando veda a ti, cincio petto cacotì, quando veda a ti, salto passo dalla via, quando veda a ti, scordo tutta me Maria, quando veda a ti, mesa smoda fantasia. Armoni prurito, la stiorna benedette, membriaco senza botte, senza butta, senza vino, persa testa all'omadino, perse anche la ragione, e te veda tutto ignore, quando veda a ti, cincio petto capo a ti, quando veda a ti, salto passo dalla via, quando veda a ti, scordo tutta me Maria, quando veda a ti, me se spoda fantasia. Di vasare te lo petto, me venne lo pedetto, di gonzare te lo letto, a diventare pastaso, un tanto sonno io te vaso, con la bocca e con le mani te sonasso marranzano. Pierpaolo Alberghini, grazie a Radio Etna Espresso, grazie. Marti Club. Capita poi tanto spesso che il cuore mi rimbalzi così forte addosso, ed ho l'età che tutto sembra meno importante, ma tu mi piaci troppo e resto conta niente. Digli al tuo compagno che ci acquisti stanotte, se vuole può venire qui a rompermi di botte. Però sono sicuro che saranno carezze, se per avere te un pochino almeno servisse. Posso rivederti già stasera, ma tu non pensare male adesso, ancora il solito sesso. Chiuderò la curva dell'arcobaleno per immaginarla come la tua corona, e con le righe dell'orizzonte in cielo ci farò un bracciale di regina. Ma se solo potessi un giorno vendere il mondo intero in cambio del tuo amore vero. Sai, qualcosa tipo cielo in una stanza è quello che ho provato prima in tua presenza. Dicono che gli angeli amano in silenzio, ed io nel tuo mi sono disperatamente persa. Sento che respiri forte in questa cornetta, maledetta mi separa dalla tua bocca. Posso rivederti già stasera, ma tu non pensare male adesso, ancora il solito sesso. Correrò veloce contro le valanghe per poi regalarti la fiamma del vulcano. Respirerò dove l'abisso discende, avrai tutte le piogge nella tua mano. Ma se solo potessi un giorno vendere il mondo intero in cambio del tuo amore vero. Stasera, ma tu non pensare male adesso, ancora il Sulle note di Max Gazzè, Il solito sesso, questo è il featuring con la Turci e la Rei di Sanremo del 2008, se non vado errato e la memoria non mi inganna. Siamo davvero ormai giunti alla conclusione, quindi ci salutiamo, ci rinnoviamo ovviamente l'invito per martedì prossimo, perché siamo sempre in diretta qui come ogni martedì tra le 21 e le 23 dalla Space Music di Acireale, che ci offre appunto questi locali, questi spazi, e lo offre non solo a noi che qui facciamo radio, ma soprattutto ai nostri ospiti che di settimana in settimana si susseguono regalandoci e regalandovi la loro musica originale e suonata davvero dal vivo qui sulle frequenze di Radio Etnespresso per il Marchi Club, che ricordo è giunto proprio alla sua seconda stagione. Ringrazio ovviamente il mio compagno di viaggio Riccardo Trovato, il nostro regista Marco Bertani, il nostro fonico Giuseppe Pandolfo, tutto lo staff qui della Space Music, il gruppo Radio Etnespresso, il nostro sindaco e l'assessorato alle politiche giovanili, e ovviamente voi che siete stati con noi per queste due belle e veloci alla fine, perché due ore sembrano tante di diretta, poi corrono via, specie quando si vivono davvero appieno e in maniera piacevole. Ma questa sera ringraziamo soprattutto i Beddi che sono stati qui con noi, hanno suonato dal vivo per i nostri ascoltatori, insomma una band sicuramente da conoscere, molti la conoscono, ma da approfondire tanti discorsi su di loro. Vi ricordo che c'è il loro sito web, che c'è la loro pagina Facebook, quindi basta cercare i Beddi, i musicanti di Sicilia, un altro dei loro appellativi, e quindi potete davvero cercarli, ascoltare la loro musica. C'è anche YouTube, quindi il loro canale ufficiale su cui caricano non solo i video, quelli ufficiali, quindi che riguardano la loro discografia, i loro ormai 5 album, e ovviamente gli auguriamo di andare ancora avanti con la loro carriera, di inaugurare tanti nuovi progetti. Giusto poc'anzi ci hanno annunciato già qualche piccola chicca, qualche piccola anticipazione su quelli che saranno i loro prossimi lavori. Sono al momento in fase di registrazione, quindi a breve avremo qualcosa di inedito, nel senso di originale, davvero di nuovo, che sarà ancora frutto dell'espressione, dell'ispirazione dei Beddi. Ovviamente questa dimostrazione del fatto che al Marchi Club abbiamo anche spaziato, come l'anno scorso, ma lo rifacciamo quest'anno ancor più rispetto alla passata stagione, davvero andiamo oltre ogni limite, perché la musica non ha necessariamente delle etichette, non ha necessariamente dei generi e nessun tipo di limitazione, di restrizione. E quindi questa sera abbiamo ospitato questo gruppo davvero particolarissimo nel proprio genere. Dico bene, Davide? Stavamo ricordando un po' i contatti YouTube, Facebook, dove possiamo trovarvi. Noi dici, siamo arrivati tutto a giorno. Io l'ultima cosa che ho dimenticato di dire, voi ci avete presentato come i Beddi, in effetti il nome era nato i Beddi, poi i nostri produttori, ci sono delle persone che ci seguono, quando abbiamo fatto quest'ultimo disco che vuole andare anche all'estero, hanno ingrandito il nome, ora il nome è i Beddi Musicanti di Sicilia. Sì, infatti l'ho specificato, un nuovo appellativo, diciamo, che si accompagna al vostro nome, quindi proprio su Facebook il trovate i Beddi, ma in realtà il nome completo è i Beddi Musicanti di Sicilia. Quindi Facebook, YouTube, sito web è in lavorazione. È lavorazione, perché rimanda in realtà a Facebook, però sì, è in fase di work in progress. Arriverà quello nuovo, molto prossimi eventi, proprio se c'è già qualcosa in programma, al volo. Sì, sì, giorno 30 saremo a Chiaramonte Gulfi, il 1 maggio saremo a Giardini, uh-huh, e il 7 maggio saremo a Savoca. Okay. Insomma, che dire, poi ce ne saranno anche tanti. Siete altri, già belli pieni di impegni, sì, ovviamente sì. Seguiteli su Facebook e seguite anche noi del Marchi Club in modo da rimanere aggiornati. E a luglio andremo in Ungheria. Bene, quindi un'altra tappa internazionale. Quindi seguiteli su Facebook, seguite ovviamente anche noi su Facebook. E che dire, appuntamento a martedì prossimo, sempre dalle 21 alle 23, sempre per il Marchi Club, qui in diretta dalla Space Music di Acireale. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao. Marchi Club, l'unico club di musica live in diretta radio. Su Radio Etna Espresso, ogni martedì dalle 21 alle 23, Marchi Club. Marchi Club. L'ora esatta di Radio Etna Espresso. Mancano 2 minuti alle 23. Buonanotte a tutti, ciao! La new hit della settimana. Disco Espresso. Disco Espresso. Il mio problema è che io non so perdere, e quando muoio qui dentro i miei calcoli, tra i miei pensieri, quelli più neri, affogo i miei rimpianti, tutti i miei pianti. Tu che mi spingi oltre i miei calcoli, e se poi vinci, tu mi costringi a rifugiarmi dietro le mie maschere, per sentirmi forte, inespugnabile. Stupido gioco che questo specchio sa mostrarmi, io parte debole.